Capitolo quarto. Dell'inferno e delle cose spaventevoli che vi si incontrano. 21. Ero pronto a tutto quando entrammo nel sotterraneo dove era custodito l'archivio zero. Ma quello che mi trovai di fronte era la peggior disgrazia che potessi immaginare. Un leccapiedi. Non esiste arma più terribile in dotazione a un regime. Il suo intuito nel giudicare chi conta e chi non conta è infallibile. È difficile corromperlo, perché sa chi può dargli di più. Non può essere adulato, perché l'adulazione è il suo terreno privilegiato. Non può essere spaventato, perché sa chi può proteggerlo. Sa chi sale e scende le scale delle gerarchie. Una sua occhiata di disprezzo è la prova più sicura di una carriera finita. Dietro di lui, alla parete, tre ritratti del gerarca: comiziante, yachtman e in famiglia. Davanti a lui, su una scrivania ordinatissima, decine di giornali scandalistici, con notti brave, segreti d'alcova, tumori di divi, liposuzioni di dive e soprattutto notizie del palcoscenico mondano. Chi c'era, chi non c'era e perché. Da quella scrivania, il leccapiedi ci fissava, sicuro di sé, invalicabile Cerbero tricoturno lappante. «Dove volete andare, signori?» chiese con voce cerimoniosa. «Agli archivi». «E chi vi manda?» «Missione segreta. Come ha visto, possediamo il codice di entrata. Non basta. Per le missioni segrete devo ricevere comunicazioni dal dottor Pelosino». «Vi manda il dottor Pelosino?» «No». «Allora mi dispiace, signori, ma se non vi manda Pelosino non potete passare, salvo ordini superiori». «La missione riguarda la sicurezza interna». «Allora, se riguarda la sicurezza interna, devo avere l'autorizzazione scritta del generale Mazza». «Vi manda il generale Mazza?» «No». «Allora sono spiacente, signori, ma non posso farvi passare, salvo ordini superiori». «Allora telefoni ai dirigenti dei servizi speciali». «Sei matto?» bisbigliò sottovoce Alice. «Ci scopriranno!» «So quel che faccio», risposi. Controvoglia. Ma alquanto sorpreso dalla mia sicurezza Baol, il leccapiedi telefonò al reparto servizi speciali. Gli rispose una cortese polifonia di segretarie. Chiese del dottor Gerez, ma era in riunione. Il dottor Cipolla era in auto in una zona montagnosa dove il radiotelefono non riceveva. Il dottor Masè era uscito da pochi istanti, forse sono ancora in tempo a trovarlo, no, è andato. Il dottor Alzamendi era andato a controllare i lavori. Il dottor Tubo era andato a portare una busta al dottor Alzamendi. Il dottor Pisello era in giro con i giapponesi. Il dottor Amadei era in bagno col sangue al naso. Il dottor Baik stava tenendo su la testa al dottor Amadei. Seguì un secondo giro di telefonate. Il dottor Gerez era uscito dalla riunione ed era andato a relazionare sulla riunione. Il dottor Cipolla era prigioniero di un ingorgo di tir e il radiotelefono via più non riceveva. Il dottor Masè era rientrato un attimo, ma era subito uscito. Forse faccio in tempo a fermarlo? No, se n'è già andato. Il dottor Alzamendi, ricevuta la busta dal dottor Tubo, ne stava esaminando il delicato contenuto. Il dottor Tubo era in attesa dei risultati di questo esame. Il dottor Pisello era in giro con gli arabi. Il dottor Amadei era sempre in bagno col sangue al naso e si temeva per la sua vita. Il dottor Baik era andato ad avvisare la famiglia Amadei. «Allora, non trova nessuno?» dissi, fingendomi spazientito. Il leccapiedi spalancò le braccia. «Mi dispiace, ma nessuno può garantire per voi. Dovete andarvene, dato che senza ordini superiori...» «Scusi, lei ha telefonato a tutti, ma non al più importante». Il leccapiedi drizzò le orecchie. «Di chi parla?» «Del dottor Altenmeier». A quel nome, naturalmente inventato, il leccapiedi impallidì. «Veramente...» balbettò. «So bene che, essendo lui il vero capo segreto dei servizi segreti, è prudente chiamarlo il meno possibile, ma vista l'emergenza, lei sa bene che brutto carattere ha Altenmeier, e se sapesse che non l'abbiamo consultato...» «Ho sentito dire qualcosa a riguardo», disse il leccapiedi. «Una persona di grande valore». «Il valore non si discute», dissi. «Certo, quando uno è così potente si può permettere anche alcuni eccessi. Lei sa a cosa mi riferisco? Al caso Fiorillo». «Poveraccio», disse Alice. «Cosa gli è successo?» si lasciò sfuggire il leccapiedi. «Beh, il solito scatto d'ira di Altenmeier, con un tagliacarte e tac, fiorillo inchiodato con la mano sul tavolo. E mentre era lì inchiodato, Altenmeier continuava a sputargli in faccia. È arrivato il gerarca in persona e non smetteva. «Il gerarca in persona?» gridò Leccapiedi scattando in piedi. «Proprio così. Perché si dice?» avvicinai la bocca all'orecchio del Leccapiedi. «Che anche il gerarca ne abbia paura. Lei conosce quella storia delle segretarie?» «Ho sentito dire...» «Altenmeier è un vero maniaco. Le assalta ovunque. Si apposta in ascensore. Si nasconde dietro le macchine distributrici del caffè. Salta loro addosso mentre stanno alle fotocopiatrici. Escono fogli pieni delle sue manate e di altre impronte che non le dico. Una volta ci ha provato con la segretaria del gerarca in persona. No! Sì, e quello che è più grave, mentre lei si trovava sulle ginocchia del gerarca. Non ha paura di nessuno, disse nella mucca, e si scoprì il torace, mostrando vari rattoppi. Le vede queste cicatrici? Io ero la sua guardia del corpo. Ogni volta che gli sparavano contro, lui mi sollevava di peso, 150 kg, e si faceva scudo col mio corpo. Una volta che io non c'ero, si fece scudo con la moglie, crivellata, un vero managero. Mamma mia, gemette il Leccapiedi. Mi ricordo quella volta che non gli passarono la telefonata. Basta, basta, implorò Leccapiedi. Allora lo chiama? Conosce il suo numero segreto, o no? Non potrebbe chiamarlo lei? Come vuole. Scusi se le volto le spalle, ma lei conosce sicuramente le norme di sicurezza Altenmeier. Composi il numero del bar Apocalipso, mi rispose Galles. Qua Bedrosian in missione speciale. Ho il permesso di andare all'inferno? Certo che ce l'hai, rompi coglioni, e anche di creparci dentro, disgraziato ubriacone. Lo fai apposta a telefonarmi durante la partita? Misi giù il telefono che ancora strillava. Sentito che caratterino, dissi. Spero che lei non riferirà al dottor Altenmeier di questi pochi minuti che vi ho fatto aspettare, disse il Leccapiedi. Lei non ci ha visto, noi non l'abbiamo vista, disse Alice. Il Leccapiedi si inchinò più volte e proferì parole di stima e sottomissione, mentre ci accompagnava alla porta della zona archivi. Lo salutammo principescamente. Come hai fatto a sapere che non avrebbe trovato nessuno ai servizi speciali? Disse Alice, mentre ci allontanavamo. Un trucco Baol? Nessun trucco, dissi io. C'è la partita in televisione.